Radio Solmansi è nata nel 2000, ma già prima di quella data però in Guinea esistevano delle radio. Di che tipo e che ruolo hanno svolto in quegli anni? La radio in Africa è davvero molto diffusa e con la liberalizzazione delle frequenze in Guinea-Bissau già dal 91 si sono sviluppate varie radio private e soprattutto le cosiddette radio comunitarie, cioè sostenute magari da qualche organizzazione, qualche ONG per far conoscere i propri programmi. E un ruolo però veramente importante ha svolto la radio anche durante la guerra, perché la giunta militare, cioè i ribelli, hanno preso la radio commerciale più diffusa nel paese e l'hanno utilizzata proprio come strumento per spiegare le proprie motivazioni, insistere sul un discorso di cambiamento, di lotta alla corruzione, di giustizia, di sviluppo, e quindi con la radio sono riusciti a unire un po' tutta la popolazione contro il presidente, e quindi è stata proprio una delle armi decisive per vincere la guerra. E quindi a questo punto lei, avendo vissuto questa esperienza, ha pensato di fondare una radio. Ma come mai proprio la radio e non un altro mezzo, un giornale, una TV? Ma innanzitutto proprio perché ho visto il ruolo decisivo della radio, e quindi mi sono detto: se una radio è servita per far vincere una guerra, perché non fare una radio per far vincere la pace, lo sviluppo, la riconciliazione? E perché la Guinea-Bissau è una nazione dove più del 60% della popolazione è ancora analfabeta, economicamente la maggioranza della gente è proprio alla sopravvivenza, e quindi un discorso di acquistare giornali diventa veramente difficile, e per la mancanza di energia elettrica. Praticamente solo alla capitale c'è energia elettrica e neanche assicurata sempre, e quindi anche la televisione è vista da un'estrema minoranza. E quindi la radio risulta il mezzo più semplice, più economico, perché bastano delle pile, poi l'apparecchio è molto, costa poco, quindi è un po' alla portata di tutti, e quindi è sicuramente il mass media dell'Africa. Ecco, noi siamo abituati, diciamo, al modello di radio europea, americana, che sentiamo quotidianamente. Invece, che ruolo ha avuto in questo contesto, quindi un ruolo magari anche sociale, morale, Radio Solmansi appunto in Guinea? Sì, la radio in Guinea, in Africa, svolge varie funzioni. Sicuramente è un momento di svago, è una compagnia come lo è da noi, diciamo, in Occidente, ma anche un forte ruolo informativo per uscire proprio dall'isolamento. Pensiamo, ci sono villaggi che non ci sono strade di comunicazione, quindi i collegamenti sono tutti a piedi, non c'è il telefono, e quindi l'unico modo per uscire dall'isolamento è la radio. E poi ha un grande ruolo formativo, perché attraverso la radio si fanno programmi di prevenzione delle malattie, di educazione alla pace, di recupero dei valori delle culture tradizionali, si trattano temi come la convivenza tra etnie e religioni diverse, e ecco, tanti temi che appunto una radio magari italiana non sviluppa, o comunque ha in piccola parte, che invece nel contesto africano hanno un'importanza veramente grande. Quindi, insomma, in buona parte possiamo anche dire che si sostituisce magari alle scuole o altri generi di istituzioni che hanno più difficoltà a essere diffusi. E dal punto di vista del palinsesto, se così lo possiamo chiamare, che cosa si può sentire su Radio Solmansi? Ma diciamo che ha un palinsesto è molto vario, segue un po' i canoni, no, della formazione, informazione, intrattenimento, quindi c'è molta musica della Guinea-Bissau, musica africana, ma anche musica internazionale. Anche la musica italiana ha il suo spazio, e ci teniamo proprio a far conoscere tanti generi musicali, perché anche questo è importante. E poi è un ruolo importante all'informazione, e crescendo la radio adesso è riuscita ad avere un notiziario ogni ora, e questo è veramente importante, proprio per far conoscere ciò che avviene nel mondo, ma anche per far conoscere al resto del paese quello che accade anche nei posti più isolati, quindi dar voce a chi non ha voce. E poi al mattino e in una parte della sera ci sono questi programmi formativi, In più, ecco, anche con una certa fantasia si cerca di fare della radio uno strumento educativo. Ad esempio facciamo delle radionovele dove si presentano delle figure importanti che magari sono meno conosciute in Guinea, ma che hanno avuto un ruolo importante. Ad esempio abbiamo fatto una radionovela su Martin Luther King e così via, ecco, che sono dei modi proprio per far conoscere grandi personaggi che hanno un messaggio da dire anche alla Guinea di oggi. E poi diamo molto spazio anche agli ascoltatori. Il telefono è poco usato per motivi evidenti, perché pochi ce l'hanno, o quelli che ce l'hanno magari lo usano il meno possibile, però la gente scrive, quelli che possono scrivono, mandano lettere. Abbiamo un programma ad esempio di poesie romantiche alla domenica sera, ed è un modo anche per stimolare lo studio e l'uso della lingua portoghese, che sarebbe la lingua nazionale ma che è in genere a livelli abbastanza bassi. Ecco, quindi abbiamo anche vari programmi che sono tra l'intrattenimento e la formazione, che così caratterizzano un po' il palinsesto della radio. Da chi è che è gestita e chi è che parla concretamente in radio? Ma quando io ho iniziato, sin dai primi giorni si sono fatti avanti vari giovani, e quindi è cresciuta con tanti volontari, e la cosa molto bella è che sono sia cristiani che musulmani che seguaci della religione tradizionale, quindi sin dall'inizio si è caratterizzata come una radio interreligiosa, interetnica. Attualmente abbiamo 4 persone a tempo pieno, quindi anche stipendiate, e una quarantina di volontari, tra cui i corrispondenti che sono in ogni cittadina, cioè in ogni missione della Guinea-Bissau c'è un corrispondente, quindi riusciamo anche a dare una copertura di notizie a livello nazionale. Io ho diretto questa radio nei primi 3 anni, poi sono stato richiamato in Italia per un periodo di servizio, e allora in questo periodo il responsabile della radio è un giornalista guineense che ha fatto una scelta molto coraggiosa, cioè quella di, lui viveva in Portogallo, lavorava nella radio più grossa del Portogallo, e ha fatto la scelta di lasciare questo lavoro sicuro in Europa e tornare in Guinea-Bissau, e quindi adesso è lui il direttore di questa radio. Dal punto di vista invece del finanziamento degli introiti, c'è qualche genere di pubblicità? Siete più che altro finanziati poi dalle donazioni inerenti al progetto missionario? Ma naturalmente agli inizi molto si dipende dagli aiuti e dall'Italia, però ecco, alcune fonti di entrata, diciamo, sono più tipicamente africane. Quindi le pubblicità sono ancora molto poche per il contesto economico in cui si è, ma un'entrata ad esempio è il fare dei programmi formativi finanziati da organizzazioni interessate a far diffondere un certo messaggio. Pensiamo ad esempio, se c'è un'organizzazione presente in Guinea-Bissau per la difesa dei diritti dei bambini, ecco, ci chiede di fare dei programmi per parlare dei diritti bambini, e paga lo spazio di antenna, l'utilizzo dell'antenna. Questo lo facciamo con alcune organizzazioni, ed è il nostro obiettivo, è quello di far aumentare questi spazi di antenna in modo da poter arrivare a una certa autonomia. Attualmente veniamo sostenuti anche tramite il club Amici di Radio Solmansi, che sono varie persone che appunto dall'Italia si iscrivono a questo club pagando 50 euro all'anno, che corrisponde a una giornata di funzionamento della radio come costo, anche se ormai siamo arrivati a pagare praticamente il doppio con l'aumento del combustibile. Ecco, però con questo si riesce a sostenere la radio, quindi chi vuole può aderire a questo club Amici di Radio Solmansi, e poi si viene informati di quanto avviene alla radio attraverso una lettera circolare. Qualche dato tecnico, la copertura, come funziona, più o meno si ha un'idea di quanti ascoltatori si riesce a raggiungere? È una radio che può essere considerata a livello nazionale? Dunque, è nata come radio locale, all'inizio aveva un raggio di pochi chilometri, poi pian pianino è cresciuta, attualmente copre un terzo del territorio, però raggiunge oltre la metà della popolazione. Proprio in questi giorni si sta montando una torre più alta, e quindi dovremo riuscire soprattutto a raggiungere molto meglio la capitale, questo ci farà crescere. Ecco, teniamo conto che in Guinea-Bissau ci sono una quindicina di radio, pur essendo una nazione molto piccola con solo 1 milione di abitanti, e la nostra radio, che è una delle più giovani, velocemente è diventata la radio locale più ascoltata della nazione e può essere collocata tra il terzo e il quarto posto, ecco, a livello nazionale. Però stiamo elaborando un progetto, una richiesta di finanziamento perché diventi la radio nazionale della Chiesa, e quindi dovrebbe coprire tutta la nazione attraverso dei ripetitori. Ecco, se lei dovesse tracciare ad oggi un bilancio dell'attività di questi anni e lanciare delle prospettive future, come le è sembrata questa avventura? Ma davvero è stata un'avventura bellissima ed è tutto in attesa, perché io sono andato in missione, ho fatto tutt'altro, ho lavorato sia nel campo dell'evangelizzazione ma anche con le scuole, facendo pozzi, impegnandomi nel campo sanitario, e quindi questo della radio è stata così un'intuizione maturata durante la dura esperienza della guerra. L'avevo pensata come una cosa molto piccola, appunto una cosa con un raggio di pochi chilometri, ed è cresciuta veramente così, piano piano, quindi è un'esperienza veramente bella, entusiasmante, ed è bello vedere come continua a crescere anche adesso che io non ci sono, e questa radio è gestita completamente da personale locale, e il mio desiderio è quello proprio di ritornare, penso l'anno prossimo, fra 2 anni al più tardi, per riprendere questo cammino, perché è un'avventura veramente bella. Complimenti e grazie.